due ciminiere e un campo di neve fradicia. Qui è dove sono nato e qui morirò. Se un sogno si attacca come una colla all'anima, tutto diventa vero, tu invece no. Ma puoi quasi averlo, sai. Puoi quasi averlo, sai. Tu puoi quasi averlo, sai. E non ricordi cos'è che vuoi. Ancora senso battersi contro un demone, quando la dittatura è dentro di te. Lotti, tradisci e uccidi per ciò che meriti, fino a che non ricordi più che cos'è. Anche quella più crudele, liberarti dalla fede e cadere finalmente. Tanto è furbo più di noi questo nulla, questo niente. Si attacca come una colla all'anima, tutto diventa vero, tu invece no.